Allora tu, il negozio sì? K, bella modulazione. K, sono qua, sono. Sì. 9,5 mi arrivi, caspita, già va bene già. Ebbè, da bene la modulazione. Manda tutto insieme, non stai lì a farne in due volte prima che mi arrivi, fai tutto, intanto anch'io sto preparando il pacco, cosa stai lì a farne in due volte quella cosa là? No, ma manda via, poveraccio, ma cosa stai lì a dire molto? Anche a me era successo una volta, provalo, fallo e poi mi mandi su, mi mando dei grazie, li avevo mandati subito. Una persona che ha fiducia già si può fare, a volte bisogna che beh, che carogna, ma comunque batterimi altro. Ehi, ma tu hai visto questo, cosa mi ha detto? Cioè, ha detto il suo indirizzo me lo vuole dare a ultimo, proprio a ultimo, ha detto quando tu hai provato, hai fatto, che sei contento, io ti mando il mio indirizzo. Cioè, magari che te ne vazi e ti manda tutto quanto ancora prima, magari che te ne vazi. Boh, assolutamente no. Assolutamente no, e vuol dire che sono persone serie, ce ne sono poche, però quelle poche che ci sono serie, è così. Bombolino, c'è il bombolino sotto di te, però evidentemente sta facendo cose. Io stesso mi sto saldato nel PTT di quel microfono che ti ha mandato qualcosa, adesso lo chiudo, ci infilo il cavo, lo chiudo. e poi devo solo collegare un filo al jack del mixer dell'uscita del microfono a studio. E anche questo è fatto separato, così quando non lo uso il 50 ce lo metto da una parte, se no ce l'ho sempre qua in mezzo alle scatole solo per il PTT, e allora me l'ha giocato così. E ma infatti lascia stare così. Vabbè, oh, chiudi il microfono, chiudi tutto, guarda, fuma una sigaretta, già te lo si mette. Attento, sì. Se sto dicendo bene o se devo abbassare qualcosa qua, che non so se avevo toccato qualcosa qua. Non devi toccare nulla, già giù di nulla, niente, ottimo. Questo è lo studio, il microfono studio. Cappa, dal lavoro che hai visto. Va bene, non toccare niente, fortissima, bella, chiara, corretta, amplificata, stabile, tutto ciò. Ti ho mandato il bagaglio, ti ho mandato. Ti devo girare, aspetta, con le foto anche. Sì, hai già sentito, ma ce l'ho guardato. Azioni chiaro fuori, c'è un caldo ancora, guarda. Mi sto iniziando ad aprire le finestre, tutto, a far girare un po' d'aria, non si butta, cazzo, tutto già arrabbiato, madonna. E poi umidità, maledizione. Umidità, l'umidità piccicoccia, anzi la mangi, faccio la doccia. Sono di nuovo tutta la piccicoccia, cazzo, sono rotto le palle, no? Una bella passata di maestrale ci vuole. Magari. Perché io quando sto per uscire dalla doccia metto quasi a fredda proprio, piano piano, quasi a fredda, a lavarmi calda, perché se mi lavo a fredda pare che non mi gioco la venti, però quando sto per uscire fredda, ma proprio alla fine fredda del tutto, e poi esco, e se no sudo d'orra. Non lo so, così, cazzo, io quando uso questa radio, guarda, ricezione che ci buona in curva, tranne 9.20 che è un DSP, gli altri se le mette tutte in curva. Ha una ricezione sto Galaxy che è una cosa favolosa, ti ascolto, cazzo, sembri qua con la sua autoparlante. Ehi, abbiamo visto il video, porca miseria, abbiamo visto, sì, signor ricezione, è bella, sembra veramente un apparecchio, un HF. Sono spettacolare, io i primi che ho avuto non erano così, non lo so, non mi ricordo. Ma c'è una ricezione veramente bella, poi silenziosa, non poco QRM, non so se questa è riuscita bene, cazzo ne so. Ma no, una ricezione da paura, veramente molto bella. Infatti è difficile che io usi barattini, però questa mi attizza, capito? Perché funziona bene. Sì, questo è molto silenzioso rispetto ai classici baracchini. Sì, e magari gli hanno fatto qualcosa. Non lo so, io l'ho scelto, l'ho comprata da Danilo. Me l'ha fatta provare, mi ha detto prova, l'ho portata la sera quando è uscito dal lavoro, l'ho attaccata, l'ho provata, testata, poi l'indomani è venuto e si è preso su. Servita gliel'ho data, ho chiesto le cortesie, ce le avevo, gliel'ho data, contro box da rotore, altre cosettine là, le ho fatte avere la terra rubata, passato lì si è appresa, non venire qua. E quando le persone meritano, venuta questa veramente bella, nuova, adesso poi che è tutta controllata dal mio tecnico personale, un'altra gubba. Avanti in trasmissione, vedi, adesso ad esempio sto andando con l'MBP5, qualsiasi microfono le metti è da viaggio alla grande. A voglia. Niente, anche il respiro, cazzo, sì. Forse troppa amplificazione, c'è. Cioè, addirittura anche il respiro si sente nello smitter, nel rosmetro. No, va bene, non è fortissima, è regolata bene, lasciala stare così, non tocca a nulla. Antonio, deve essere di nuovo in consegna, stamattina devo passare a prendermi la bomba, la mi gioco di mettere via. 10, domani mattina sono impegnato con Fabrizio. Dopodomani scendo, me la prendo, quella di scorta. Stamattina ho fatto il primo carico del pellet, 10 sacchi. A 8,50 l'ho trovato. Ho trovato, ma l'ha dato 8,50. Ma ha detto però inizia a prenderti di piano piano, perché dal prossimo mese inizia a aumentare. 8,50 non la bricossata, dovrei lo compro sempre da 10 sacchi di abete, li ho già messi, ho fatto una pedanina dietro nei carrelli e sono levata la terra e mi faccio il carico lì. Non si può modificare la mia, ho chiamato il tecnico, deve bruciare solo quello, perché è un idropellet, capito? È idro. La sua gatta già canta niente anni di tuossi e dopo sono tutte tratte nelle noccioline. Io devo trovare qualcuno che ci deve dare la pedana con me, non per altro, per lo spazio che io non ho, perché pitta, per il nocciolino. Ma già canta niente anni di tuossi e dopo tu fai così, metti la piastrina, da lì sono sempre tutto andare al nocciolino. Ascolta, manda un messaggio a Andrea, se lui brucia nocciolino, lui va a nocciolino, quello lo so, se l'aveva modificato. Manda un messaggio a Andrea, se gliene serve ve la diffidete. Chi è perché? Sì, ok, va bene, piano piano sto conservando tutto. Così il 50 è parcheggiato, capito? E mi rompo le scatole ad avere tutte le basi nei piedi, e invece c'ho solo il mixer, il 60, il buco. No, va bene, è una bomba. C'hai picchi di... da 9... sì, poco più di 9, quasi 9,10 vai a 9,15. Bella modulazione, va bene. Non entra nessuno, vabbè, faccio 5 minuti in bianco, KK. E non si è attaccato la sua capelli? No, la ventola dell'alimentatore. La ventola dell'alimentatore, beh, si sente bene, perché i microfoni da studio poi fanno l'audio a 360 gradi, io mi posso spostare nella stanza, dove, in qualsiasi posto, e lui come che ci sono di fronte, capito? Rispetto al dinamico che prende solo se ci frontale e si sente quando ti sposti. Cazzo, no, va bene. Ti hai fatto un bel impiantino, complimenti, ottimo per la truppa, per la modulazione, per la posa, come piace a me. Finalmente ci si è arrivato, va bene, dai. E io bianco anche per me, dai. Leccato, no, me ne vado di nuovo fuori. A dopo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno?